America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, beh, cominciamo con una notizia, devo dire, mi ha colpito molto l'arresto di Mohammed Hamza Khan, un ragazzo di 19 anni che aveva deciso di unirsi all'ISIS. È stato arrestato dall'FBI poco prima di prendere un aereo che via Zurigo lo avrebbe portato a Istanbul. A Istanbul aveva i suoi contatti che lo avrebbero poi dirottato sulla Siria o sull'Iraq, dove si sarebbe arruolato in modo diretto con le truppe combattenti. Ecco, è uno degli esempi, perché sembra che ci siano altri 12 cittadini americani come lui che si sono arruolati tra le fila dell'ISIS. ISIS che ha creato un disastro tra Iraq e Siria, la guerra civile, rifugiati, 1 milione di rifugiati soltanto in Giordania, ai confini meridionali della Siria, un altro milione, molto più di 1 milione, anzi 1,5 milioni a nord in Turchia. E il problema dei rifugiati è uno dei problemi più gravi del nostro tempo, ne parleremo più diffusamente domani. Oggi vorrei fare però una trasmissione ponte dedicata ad altri rifugiati, rifugiati del Sud Sudan. Ho parlato con alcuni di questi ragazzi che sono stati poi ingaggiati come attore in un film molto bello, un film commovente, The Good Lie, La bugia buona. Vi ricordate, ieri abbiamo parlato delle bugie, avevo accennato a bugie che possono essere delle bugie buone. Ecco, questo film, perché è un vero e proprio film, è costruito attorno a delle bugie buone che vengono raccontate per poter scappare dalla morte sicura. Hey, so I know you have some openings in food prep and it just so happens that these guys have a lot of experience. Sono stato a vedere l'anteprima di questo film di Philippe Falardeau qui a New York. È la storia di tre ragazzi, tre rifugiati del Sud Sudan che hanno trovato asilo negli Stati Uniti. Ecco, i tre ragazzi sono Mamere, Pater Damon Gonk, Jeremiah, Tom Quot e Paul Dengojet, e poi Abital, che è la sorella. Questi tre ragazzi sono fratelli, si tengono per mano, in realtà sono magari di padri diversi, di madri diverse, però si considerano fratelli. Abital è la loro sorella, che è Jaijal, una bellissima ragazza, che viene separata da loro, e la loro preoccupazione è di portarla con loro in Kansas. Trovano lavoro grazie a una consulente di un'agenzia locale che è interpretata da Reese Witherspoon, bravissima devo dire in questo suo ruolo, e ci sono delle scene dolcissime e anche esilaranti, perché questi ragazzi non hanno mai visto l'elettricità, non conoscono niente, si trovano a disagio nei costumi del mondo civile, raccontano delle storie che lasciano gli altri sbalorditi. Questa serata c'era Samantha Powell, l'ambasciatore americana alle Nazioni Unite, ha parlato con un cuore enorme, implorando il pubblico di aiutare, perché la guerra civile in corso adesso sta facendo nuove vittime. E poi ho chiacchierato con gli attori, incluso Emmanuel Jal, al quale ho chiesto di lanciare la canzone del giorno. Sentiamo con Arnold prima. Arnold Cheng, l'attore protagonista di questo film, The Good Lie, La bugia buona. Grande attore come tutti gli altri grandi attori, e con una sua storia molto personale che si identifica col messaggio centrale di questo film, di queste storie tremende dei rifugiati. Arnold, why don't you tell us your story? Qual è la tua storia? No problem. My mom is Ugandan. My dad is from South Sudan, but my dad passed away when I was very young, when I was 2 years old. He died, and my mom, with me and my older sister, left Uganda because of the civil war that was happening there. Ecco, questa è la sua storia. Dice che suo padre era del South Sudan, del Sudan del Sud, e sua madre era dell'Uganda. Si erano sposati, però poi il padre è morto quando lui aveva appena 2 anni. La madre scappa da queste guerre civili, si rifugia in Inghilterra, in Gran Bretagna, con lui bambino, con sua sorella. Poi lui cresce in Inghilterra, non sapeva nulla del padre. Il fatto di aver potuto fare questo film gli ha dato la possibilità di recuperare le sue radici. È stato un viaggio per me verso mio padre, in onore di mio padre. Allora, sono con Trent Lagwell, che è il produttore del film, the producer of the movie. So, It was an adventure. It was an adventure. The director who came on board said he wanted to make this movie. He had been making a documentary about the Lost Boys in the 90s and was evacuated out of there because it became so dangerous. He came to us and said, I want to do this movie, but I want to do it with authentic South Sudanese Lost Boys and Girls. Allora, il produttore Trent, che è molto giovane, tra l'altro, dice che è stata un'avventura, 6 mesi soltanto per fare il casting del film e l'hanno fatto un po' dappertutto nel mondo per trovare questi ragazzi perduti, questi ragazzi che erano stati abbandonati dalle famiglie oppure con le famiglie uccise sul campo. Sono con Emmanuel Jad, un altro dei protagonisti del film, che ha una storia, devo dire, alquanto incredibile e credo valga la pena di raccontarla. Emmanuel, you have an incredible story. Can you tell us your story? How did you come here? Oh, well, it's a long journey because I come from South Sudan, and the way I came internationally is through music. I was born when my country was at war, so I saw what the war has done. It stole the soul of my village, reached the core of my family. All my aunties died during the war, including my mom, and all my uncles died in the war except two. Allora, racconta che era in un villaggio del Sudan e questo villaggio è stato trucidato letteralmente, gran parte della popolazione del villaggio è stata uccisa, inclusa sua madre, inclusi i suoi zii, le sue zie, soltanto 2 zii sono sopravvissuti, è scappato con loro e a un certo punto, scappando quando aveva 7 anni, è stato rapito ed è diventato un guerrigliero bambino, un child soldier. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come vi ho detto, ne ho parlato con Emmanuel Jal, attore, musicista, grandissimo personaggio di grandissima umanità. Sentiamolo. As you are a musician, choose for us la canzone del giorno. Che canzone del giorno scegliamo? What is the song of the day that we'll do? Jesus My Best Friend by Puff Daddy. And with this song I dedicate to you, my Lord. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.